Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Lo conoscete bene questo Last Minute. Last Minute per la serata di mercoledì. È una delle ultime. Ultima sarà questa. Ho detto una delle ultime perché mi piace pensare che ce ne siano diverse e che ci sia la possibilità di portare avanti il progetto anche nelle serate autunno-invernali al binario 69. L'esperienza della console aperta è stata molto interessante, oltre che per l'aspetto di aggregazione, anche per una qualità musicale eterogenea unita dalla passione. A tale proposito ringrazio il nostro Andrea Utensili Pelé, uno dei Jazzanova All Star, come Manuel Mitoli, che è un produttore oltre che DJ, con talento, passione, qualità musicale, volontà di ricerca. Alessandro Pederzani, con esperienza, è difficilissimo toglierlo dalla console, ma non è certo con un motivo di lamentela che dico questo, anzi tutt'altro. Direi che oltre che un piacere è importante trovare chi porta anche una struttura concreta alle nostre serate, ma soprattutto per ascoltatrici e ascoltatori che hanno voglia di essere DJ, ringrazio chi ha portato vinili, chi ha portato entusiasmo, anche un saluto, anche un momento, anche la consegna di un libro. Beh, intanto non è una bellissima notizia, però per Dino della Bolognina il libro di Giulio Busi, dedicato a Giovanni l'Evangelista, non è arrivato, quindi per questo mercoledì non lo troverai, però mi riprometto ovviamente di consegnartelo a presto. Beh, questa sera ci riuniamo, ultimi giorni d'estate, ecco, ci vogliamo ritrovare sempre con quelle motivazioni che vi ho appena elencato. La serata perfetta è dalle 18 fino alle 21.30, ecco, poi ci si può fermare, anzi di solito ci fermiamo per fare due chiacchiere, per stare un pochettino assieme, condividere qualche momento e qualche anche suggerimento e opportunità che ci potete dare sia per i nostri e i vostri a questo punto DJ set e perché no anche per il Breakfast Club. Non è saltata né la frequenza né il brano New York and Soul. Questa è una produzione di Manuel Mitoli, Evolution Trip, è un long format in musica dove c'è l'evoluzione, dove vi è il sorgere del sole in un video bellissimo, tra l'altro, che viene comparato con questa produzione contemporanea tra elettronica e acustica a un viaggio. Un viaggio non solo nella mente, ma anche nella fisicità umana. È un brano che mi è arrivato da poco, è un brano che mi ha colpito molto, mi ha coinvolto molto per la sensibilità artistica, per la capacità estetica e anche per la ricerca. Come avete sentito, è iniziato con come la creazione dal caos, no? L'idea della creazione dal caos, cercandola come? Tra le frequenze di una radio che andava a mettersi in frequenza, in sintonia, e alla fine questo incedere in un apparente ordine che troviamo a breve un pochino, ovviamente lasceremo queste note. Ed è una produzione di Manuel, tra le tante che non solo DJ, ma anche per quanto riguarda la musica elettronica, compositore, che ho avuto il piacere di conoscere con Jazzanova All Star, ed è veramente un caloroso abbraccio a Manuel per la sua passione e per la sua capacità anche, per tutti i dischi che mi ha fatto anche conoscere. Nostro intendo anche vostro, perché l'open console, lo dice il termine stesso, è una console aperta. Aspetto Erika, che è stata una presenza importante, ha trovato modo di esprimere la sua musica. Aspetto Antonia, che è un'altra immagine per quanto riguarda la selezione musicale tra soul, funky ed R&B, a modo suo molto molto capace, avvicinandosi alla console e avvicinandosi al mixer e a portare come DJ note di ispirazione eterogenee, come ho detto variegate. Alessandro Pederzani, Andrea Utensili, Pelé completeranno per così dire questa formazione all'Open Desk Open Console per Binario 69, Open Deck, ecco, diciamolo nella maniera più corretta. Comunque questa sera dalle ore 18 più o meno, di solito siamo, intanto porto il brano delle ESG a conclusione, Moody, per questo mini last minute di oggi, mercoledì 4 settembre, con Binario 69. Vi aspettiamo, quindi già in redazione al completo lo staff del Voltiamo Pagina, sono arrivati Silvia e Stefano, quindi tra pochissimo libri a colazione. A questa sera allora, via Fioravanti 68 con Mini Express Open Deck, a tra poco.